Il 1 giugno 1945 viene emessa un'ordinanza firmata a governo militare alleato colonnello Charles Poletti, in cui si ordina: tutti i decreti e le ordinanze finora emanati dal Comitato di Liberazione Nazionale Altitalia, dal Comitato Regionale di Lombardia e ogni altro comitato o ente economico, finanziario o industriale del predetto Comitato di Liberazione cesseranno automaticamente di aver ogni effetto legale dal momento in cui sono stati sostituiti da decreti e ordinanze del governo militare alleato. Ogni nomina a uffici di qualsiasi natura fatta dai predetti comitati, trascorsi 7 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, cesserà di essere valida se non sarà legalizzata dal governo militare alleato. Da notare che il colonnello Charles Poletti scelse come aiutante e interprete Vito Genovese, uno dei capi di Cosa Nostra negli Stati Uniti, coinvolto in 51 omicidi e che si fece fotografare in atteggiamento amichevole insieme a Salvatore Giuliano, uno degli autori della strage di Portella della Ginestra. Già nel 1945 si erano verificati attacchi fascisti in varie località. Lo stesso Giuseppe Di Vittorio denunciò tali episodi in Puglia e non solo. E quindi in dicembre ci furono manifestazioni di protesta in varie città del nord e centro Italia. L'apparato di polizia stava tornando ad essere controllato da figure compromesse col regime fascista. Dopo che il ministro dell'interno, il socialista Giuseppe Romita, dispose la sostituzione della quasi totalità dei prefetti designati dopo la liberazione con funzionari di carriera che, come disse, meglio assicuravano la continuità dello Stato. Un esempio del ritorno di fascisti in posizioni di potere è rappresentato dal caso di Gaetano Azzariti, magistrato che fu presidente del Tribunale delle Razze dal 1938 al 1943, ministro della giustizia nel governo Badoglio dal 1945 al 1946 e che dopo il 25 aprile divenne consulente ministeriale per l'epurazione con l'incarico di capo dell'ufficio legislativo. Il 10 dicembre 1945 cade il governo Parri, composto da una coalizione politica che comprendeva i partiti del Comitato di Liberazione Nazionale e ci furono forti manifestazioni di protesta. A Livorno, ad esempio, durante lo sciopero generale venne assaltata e devastata la sede del Partito Liberale. Ed ora ascoltiamoci "E la notte ci guidano le stelle" nell'interpretazione di Giacomo Fiaschi. Thank you. L'11 maggio 1945, a Correggio e Novellara, un gruppo di donne assaltò la stazione dei carabinieri con l'appoggio dei partigiani, disarmando e cacciando i carabinieri. Nel dicembre del 1945 circa 300 ex partigiani attaccarono la caserma dei carabinieri di Binago, in provincia di Como, per liberare alcuni compagni arrestati per detenzione illegale di armi, ma anche per riprendere quelle sequestrate. Il 22 giugno 1946 venne varata l'amnistia Togliatti a favore dei fascisti. L'epurazione negli apparati statali dei fascisti era già fallita, con l'amnistia i pochi fascisti incarcerati furono liberati. Nel frattempo continuavano e continueranno negli anni successivi ad essere incarcerati molti partigiani, mentre altre centinaia andranno in esilio nei paesi socialisti, sia a causa della criminalizzazione di alcuni episodi resistenziali, sia per la continuazione della lotta armata dopo il 1946. Secondo Mimmo Franzinelli, autore del libro L'amnistia Togliatti, ci furono 23.000 fascisti amnistiati in fase istruttoria e 14.000 fascisti liberati. Il prefetto di Asti, in una relazione del 12 luglio del 1946, afferma: il recente provvedimento di amnistia adottato dal Consiglio dei Ministri ha provocato un certo disappunto, specialmente tra gli elementi partigiani e tra le famiglie dei caduti. In considerazione del malcontento suscitato dal decreto di amnistia, specialmente tra i partigiani e tra i perseguitati politici del cessato regime e delle loro famiglie, è stato necessario predisporre, sebbene in modo non appariscente, accurati servizi di vigilanza. A Imperia, nel corso di un comizio, un dirigente dell'ANPI minacciò il ricorso alla violenza nel caso di ulteriori misure di assoluzione di fascisti. A Torino, il segretario della sezione dell'ANPI di Asti, Armando Valpreda, propose in un'assemblea il 28 luglio di riprendere in mano il mitra per fare giustizia. Perfino il New York Post, in un articolo del 2 ottobre 1946, scriveva: «Questa è veramente una democrazia strana. Apre le porte delle prigioni ai delinquenti fascisti, da pochi mesi appena condannati a lunghe pene, ed apre le vie maestre della stampa ai fascisti perché facciano propaganda delle loro idee e difendano i loro interessi». A Torino, Agnelli e Valletta furono epurati dal CLN, ma pochi mesi dopo tornarono al loro posto, nonostante le collusioni e gli utili che durante il ventennio avevano legato la Fiat al fascismo e 1200 caporeparto fascisti furono reintegrati. Togliatti giustificò tale decisione dicendo che andavano sanate le vecchie rivalità. Secondo un documento dell'intelligence britannico del 30 giugno 1945, gli industriali Valletta, Falk, Piaggio e Costa finanziavano i movimenti eversivi fascisti. Il 3 dicembre 1946 venne costituito il Movimento Sociale Italiano, erede del fascismo di Salò. In un volantino del 9 luglio 1946 del comando primo GAP di Asti possiamo leggere: «Partigiani, reduci, cittadini, ecco il bilancio tragico dei primi 14 mesi di pace. Abbiamo chiesto epurazione. Abbiamo avuto i maggiori responsabili del fascismo, non solo non sono stati colpiti, ma continuano ad avere denaro e poteri. I criminali, gli speculatori di guerra si godono la vita, gli ufficiali repubblichini percepiscono stipendi ed arretrati, gli alti funzionari fascisti sono rimasti al loro posto di comando. Amnistia per i briganti neri. Abbiamo chiesto lavoro e pane, abbiamo avuto disoccupazione, fame, miseria. Abbiamo chiesto pace. Abbiamo avuto attentati terroristici neofascisti. Abbiamo chiesto Repubblica e Costituente. Abbiamo avuto sì la Repubblica, ma il re traditore Badoglio ed i suoi degni compari, con i milioni rubati al popolo, tramano nell'ombra contro la libertà e la democrazia. Siamo arrivati alla Costituente, ma quanti uomini qualunque, reazionari, fascisti, siedono sui seggi dei deputati? Basta, non è più possibile tollerare queste vergogne, sopportare queste umiliazioni, questi insulti al sacrificio dei nostri morti. Se i diritti del popolo, i sacrosanti diritti di chi ha sempre sofferto, di chi altro non chiede che di poter lavorare e vivere in un mondo fatto di giustizia ed eguaglianza, di libertà, non verranno immediatamente riconosciuti, noi riprenderemo le armi per la seconda lotta di liberazione. Per tutti questi motivi, un gruppo di ex partigiani di Asti, provenienti dalle formazioni garibaldine e da quelle di Giustizia e Libertà, si ritrovano per discutere e si organizzano manifestando un forte dissenso nei confronti della politica del PC e si preparano a tornare armati in montagna il 24 agosto. Ma nel frattempo fu destituito da capitano della polizia ausiliaria il partigiano Carlo Lavagnino, sostituito con il tenente Russo, un ufficiale della polizia fascista dell'Africa orientale. Una trentina di poliziotti, ex garibaldini, si rifiutarono di ricevere ordini da un ufficiale fascista e si ribellarono. Quindi l'insurrezione partigiana fu anticipata. Nella notte tra il 20 e il 21 agosto, guidati dal comandante Armando Valpreda, partigiano ed ex segretario dell'ANPI di Asti, i partigiani sequestrano un camion, lo caricano di armi e di viveri, dirigendosi verso Santa Libera, un paese vicino a Santo Stefano Belbo, tra Cuneo e Asti. Occupano il paese, dando vita a un'insurrezione armata. Presto vengono raggiunti da altri 200 partigiani, reduci ed ex deportati. Furono approntati 7 accampamenti e predisposti posti di blocco difesi da mitragliatrici. Ascoltiamo ora Figli della stessa rabbia, della banda Bassotti. Come c'è il farabundo Martino. I rivoltosi ci tennero a precisare che non avrebbero usato le armi se non fossero stati attaccati e comunicarono alla stampa le loro rivendicazioni. La costituzione di un corpo di polizia formato da ex partigiani. La destituzione dei funzionari compromessi con il regime fascista. L'assunzione al lavoro di reduci sia partigiani che internati senza limiti di percentuali. Il mantenimento del blocco dei licenziamenti. L'abrogazione dell'amnistia. Il blocco dei licenziamenti. La soppressione del partito dell'uomo qualunque. I ribelli conquistarono sempre più simpatie da parte della gente comune, di numerose sezioni ampi, e ci furono molte manifestazioni di solidarietà in tutta Italia. Molti partigiani del nord e centro Italia seguirono l'esempio dei ribelli di Santa Libera. Pietro Nenni, socialista e vicepresidente del Consiglio, affermò: «La vicenda si è complicata perché con gli ammutinati hanno fatto causa comune partigiani della Liguria, del Piemonte e della Lombardia». Il 22 agosto si registrarono diverse agitazioni partigiane di stampo insurrezionale a Sondrio, Brescia, Mantova, Vercelli, Lucca, Massa, Parma, Pavia, Pistoia, Savona, Reggio Emilia, Verona, Vicenza, Udine, Firenze, La Spezia, Genova. Il 23 agosto ad Aosta circa 300 tra partigiani, reduci ed ex internati assaltarono il carcere mandamentale e liberarono alcuni ex partigiani. Sempre lo stesso giorno da Torino partirono circa 300 partigiani che raggiunsero Monastero di Lanzo, dove si unirono ad altri 20 del luogo. Alcune decine invece si concentrarono a San Secondo, nei pressi di Pinerolo, altri in Val di Susa e presso Bagnolo Piemonte. Il 24 agosto un centinaio di partigiani si inseriarono tra Ottiglio, Grazzano e Madonna dei Monti, nel comune di Casale Monferrato. A Genova, il 24 agosto, un reparto della Polizia Ferroviaria Ausiliaria prese le armi e raggiunse l'entroterra di Chiavari, unendosi ad un gruppo di ex partigiani della Brigata Coduri. Nel Savonese, per alcuni giorni, circa 50 partigiani si accamparono in montagna, a 8 km da Alassio. Il 25 agosto alla Spezia un gruppo di 50 partigiani andò sui monti dove resistette fino al 3 settembre. Il 26 salirono in montagna due gruppi di partigiani per un totale di circa 500 secondo i rapporti di polizia, stabilendo contatti diretti con i compagni di Santa Libera. Il 27 agosto circa 30 partigiani armati provenienti da Torino si accamparono per 4 giorni a Marisengo, in provincia di Alessandria, a cui si aggiunsero altri 18 compagni provenienti da Ottiglio. Il 28 agosto da Viareggio circa 25 partigiani si concentrarono sui Monti Casoli, sopra Camaiore. Altri partigiani si concentrarono nel Pistoiese, in località Campiglia. Tra il 28 e il 29 agosto, circa 300 partigiani si accamparono nelle vicinanze di San Giovanni Ilarione, nel Veronese. Altri 70 partigiani occuparono per breve tempo il forte di San Marco, nel comune di Caprino Veronese. Il 29 agosto a Pallanza, in provincia di Novara, circa 200 partigiani armati assaltarono il carcere, liberando 2 partigiani. Sempre il 29 agosto, nel Parmense, circa 100 partigiani di Borgo Valditaro si accamparono presso la frazione Caffaraccia ed altri 30 si accamparono a Corniglio. Altri partigiani si accamparono nella zona di Caprigliela, in provincia di Massa. In Lombardia gruppi di ribelli vennero segnalati a Voghera, nel Bergamasco e nel Mantovano, dove circa 200 partigiani ripresero le armi. Dal 27 al 30 agosto gruppi di partigiani della Valtellina presidiarono assieme a 50 partigiani provenienti da Como una zona tra Colipo e Salvetta. Nel Prato Magno, nei primi giorni di settembre, si concentrarono circa 30 partigiani ed altri 60 nella zona di Monte Giovi. Complessivamente, per le autorità di polizia, al 29 agosto assommavano a circa 1.300 i partigiani che avevano ripreso le armi. Il comandante Valpreda dichiarerà: «Noi avevamo praticamente ribaltato la situazione. Da un gruppo di disperati che idealmente erano pronti anche a sacrificarsi per una giusta causa, siamo arrivati ad avere il controllo di una grande parte del territorio e se noi avessimo innescato l'azione avremmo coinvolto un grande numero di altri partigiani». Nel Casalese, nell'Oltrepò Pavese, a Torino, in Liguria, tutti erano sul piede di guerra, mobilitati, pronti a intervenire. Ascoltiamoci ora quindi una canzone dedicata proprio ai partigiani ribelli di Santa Libera, eseguita dalla banda popolare dell'Emilia Rossa. Passo, passo. Thank you. mi son mai piegato e giorno dopo giorno il mio ferro ho lucidato. Arrivarono inoltre molti telegrammi di solidarietà che sono tuttora conservati presso il Fondo Santa Libera nell'Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea della provincia di Asti. Questo un elenco parziale. Ampi, sezione di Rossano, in cui il segretario afferma che 30 partigiani della sezione sono pronti a raggiungere Santa Libera. Ampi, sezione comunale di Poggio Renatico, partigiani della provincia di Foggia, ampi dell'Alta Val Camonica e di Edolo, ampi di Quigliano, ampi di Biella, partigiani di Vigevano, perseguitati veronesi, ampi di Borgo Val di Taro, comitato provinciale di Padova riunitosi in seduta straordinaria, Comitato Provinciale Partigiani del Maceratese, Ampi di Chioggia, Ampi di Viareggio e Formazione Garibaldina Marcello Garosi, Ampi di Treviso, Ampi di Brigamare e Partigiani internati e reduci di Briga. Il ministro dell'Interno, il democristiano Alcide De Gasperi, manda un battaglione di fanteria con mortai e cannoni, assieme a reparti di carabinieri dell'esercito e della celere, ma nonostante le minacce e gli ultimatum nessuno interviene militarmente. Inizia invece la trattativa con vari esponenti delle istituzioni, ma il Partito Comunista mise in moto i suoi elementi più prestigiosi per recuperare la situazione dentro le maglie di una trattativa. Furono inviati dal PC, tra gli altri, Felice Platone, sindaco di Asti, Davide Laiolo, caporedattore dell'Unità, Ciro Moscatelli, comandante partigiano della Valsesia. La trattativa ha come conseguenza che il 23 agosto i poliziotti solidali con Lavagnino rientrano in caserma con l'assicurazione che non ci saranno procedimenti penali o disciplinari. Il 24 agosto una delegazione degli insorti incontra Nenni a Roma, il quale si impegnò ad accogliere le loro rivendicazioni temendo l'estensione della rivolta. Giacomo Rocca, uno dei due partigiani ribelli che facevano parte della delegazione che incontra Nenni a Roma, rilascia questa dichiarazione prima di partire. Questo movimento non è che una viva protesta di un gruppo di veri partigiani che dopo 17 mesi dalla liberazione attendono ancora un riconoscimento morale e materiale per quanto essi hanno fatto. Essi vogliono partecipare con ogni energia alla ricostruzione del paese e chiedono che vengano attuati senza intralci burocratici tutti quei provvedimenti in favore dei reduci, ex internati e partigiani che da tempo sono stati richiesti al governo. Tutti i combattenti della libertà sono solidali e la delegazione da me presieduta che si reca a Roma dovrà ottenere un risultato concreto. Soltanto a tale condizione potrà essere sedata questa agitazione che potrebbe estendersi e di cui noi renderemo responsabile il governo. Se le trattative dovessero fallire, ciò darebbe luogo a un'intera sollevazione armata di gran parte dei partigiani del Piemonte. Il capo partigiano Vincenzo Cino Moscatelli, deputato e sottosegretario del governo, raggiunse Santa Libera. Il Partito Comunista vuole a tutti i costi far rientrare la ribellione partigiana. Moscatelli riesce a convincere i ribelli a rinunciare al loro proposito rivoluzionario, informandoli del buon avvio delle trattative e prospettando, in caso di proseguimento della rivolta, uno scenario simile a quello greco, dove i partigiani comunisti erano stati massacrati dalle forze governative e dagli inglesi. I ribelli propongono in cambio della fine dell'insurrezione l'invio di un documento a Roma con le loro richieste, e Moscatelli si impegna per farle approvare in sede governativa. Le richieste sono le seguenti. 1. Impunità civile e militare incondizionata e comunque divieto a procedere verso tutti coloro i quali, direttamente o indirettamente, hanno aderito al movimento di protesta in tutti i suoi aspetti e manifestazioni. 1 bis. Selezione democratica che tenga conto dei meriti, dei titoli e delle capacità di ognuno di tutto l'apparato dello Stato. 2. Immediata assunzione di tutti i partigiani e disoccupati di Asti. 3. Immediata e pratica applicazione dei disegni di legge relativi all'assunzione obbligatoria dei reduci di guerra, compresi i partigiani, fino a totale assorbimento di essi, indifferentemente dall'aliquota stabilita dai disegni di legge stessi. Inoltre, immediato avviamento al lavoro di tutti i reduci che tornano a casa. 4. Superare le difficoltà materiali e sveltire l'apparato burocratico inerente all'applicazione di disegni di legge relativi a provvedimenti in favore di reduci e partigiani, con l'affidamento di disbrigo delle pratiche stesse agli interessati disoccupati con adeguata assegnazione di fondi. 5. Abolizione del limite di età per gli aventi diritto alle pensioni di guerra e immediata corresponsione di essa e di congruo anticipo. 6. Riconoscimento delle forze di pubblica sicurezza ausiliaria e ferroviaria, con loro ammissione nei ruoli effettivi a tutti gli effetti amministrativi e militari. Per il passaggio in ruolo si deve tener conto dei meriti, delle capacità e dello stato di servizio acquisiti. 7. Firma e pubblicazione del decreto relativo al riconoscimento dei partigiani a tutti gli effetti quali volontari combattenti e dei rispettivi gradi ai fini amministrativi e tecnici. 8. Riconoscimento dei danni per rappresaglia nazifascista o attinenti alla guerra di liberazione, quali danni di guerra con precedenza assoluta ai danneggiati che si trovano in particolari condizioni di bisogno. 9. Immediata libertà provvisoria di tutti i partigiani trattenuti in carcere che a un primo e rapido esame istruttorio rientrino nel decreto relativo alla non perseguibilità delle azioni commesse durante la resistenza e per azione politica. 10. Pagamento immediato dei debiti contratti dalle formazioni partigiane durante la guerra di liberazione. 11. Riconoscimento ed equiparazione alle scuole di Stato dei convitti scuola reduci partigiani. 12. Una volta alla settimana il prefetto riceverà i rappresentanti riconosciuti dei reduci e dei partigiani per discutere i loro problemi. Moscatelli assicura il rapido ottenimento delle rivendicazioni presentate e l'organizzazione di una grande manifestazione popolare ad Asti che accolga trionfalmente il rientro dei partigiani insorti. In realtà Moscatelli non ha nessuna possibilità di far approvare le richieste. Alla fine Valpreda e i suoi uomini decidono che alle ore 16 del 27 agosto lasceranno Santa Libera e torneranno ad Asti. L'arrivo dei ribelli in città è salutato da una folla numerosa e in piazza del municipio viene organizzato un comizio. La rivolta di Santa Libera si conclude così, mentre a Roma, il giorno dopo, il Consiglio dei Ministri convocato da De Gasperi per discutere della situazione finisce con una bozza di intenti molto ridotta rispetto alle richieste dei ribelli. Quello che ottengono si limita all'estensione delle pensioni di guerra ai partigiani, alle famiglie dei caduti, alle vittime politiche e ai loro familiari. L'equiparazione dei partigiani ai militi volontari, con relativo trattamento economico e il riconoscimento dei gradi militari ai partigiani ai fini amministrativi. non vengono nemmeno menzionati i punti principali contenuti nelle richieste degli ex partigiani, e cioè la costituzione di un corpo di polizia formato da ex partigiani, la destituzione di tutti i funzionari compromessi con il regime fascista, l'assunzione al lavoro dei reduci e dei partigiani, il blocco dei licenziamenti e soprattutto l'abrogazione dell'amnistia. Il 30 agosto fu pubblicato un comunicato su carta intestata dell'ANPI firmato dai comandanti, compreso Armando Valpreda, in cui possiamo leggere: ritenuto che in seguito agli impegni presi dal governo i partigiani dell'Astigiano hanno deciso di sospendere l'agitazione nella convinzione che le promesse fatte dalle autorità saranno immediatamente attuate, si impegnano di tenersi in contatto continuo per ogni ulteriore decisione che potrà essere presa in relazione agli avvenimenti futuri. C'è un documento dal titolo Santa Libera 1946, la rivoluzione che doveva venire, la rivoluzione che verrà, realizzato da Officine Video Indipendenti, in cui parla Giovanni Gerbi, nome di battaglia Reuccio, uno dei partecipanti all'insurrezione di Santa Libera, che ben sintetizza la portata politica dell'azione dei partigiani. Ascoltiamone alcuni brani. 21 agosto del 46 arrivo in fabbrica, come entro nel reparto qualcuno mi dice: i partigiani sono ritornati nelle Langhe. Allora ho cercato Moreto, col quale ci conoscevamo già dalla resistenza, e abbiamo deciso: raggiungiamoli, andiamo su con loro. Conoscevamo questo partigiano vecchio antifascista e al pomeriggio siamo usciti, lui ci ha caricati e ci ha portati a Santa Libera. Lui sapeva dove erano e ci ha portati lì. Loro sono partiti da Asti il 20, 20 sera erano arrivati qui, poi si sono divisi, una squadra di qui, una squadra di là, hanno subito preso posizione, capisci? E sapevano che, siccome avevano svalizzato la questura, avrebbero cercato di individuare dove erano, eccetera. Siamo arrivati qui che era buio. Più sotto c'era una postazione di loro che facevano la guardia, capisci? C'era la sentinella. Hanno visto questa luce del camion che veniva su, ho detto: chi sarà? E il camion ha fatto luce, erano subito incontrati, che li conoscevo già dalla resistenza, quindi è una festa, non ti dico, guarda, un abbraccio, proprio una cosa, come una famiglia che si ritrova, guarda. Abbiamo dormito lì con loro, io non sapevo quanti erano, ho visto quella postazione lì venendo su quando il camion si è fermato, e lì c'era stata, non so, una decina di ragazzi, ma non sapevo quanti erano. Uno di loro, uno che non conoscevo, poi ho saputo che era Armando, che era il comandante, cioè il comandante l'hanno nominato qui, non è che venire da noi ci dà un'arma a Moreto e un'arma a me, ricordo che era una carabina americana bella. Ci dice che avremmo dovuto fare una postazione in direzione di Canelli per sorvegliare la strada, che di lì potevano arrivare i carabinieri, la polizia. Con noi viene un altro, sempre che io conoscevo già dalla resistenza, Miguel. Ci dice: voi tre dovreste fare distaccamento Miguel. Eravamo in tre, distaccamento. Io avevo 17 anni. Il giorno dopo, con Miguel, veniamo a sapere il motivo scatenante di questa sommossa. La questura aveva sostituito il comandante della polizia ausiliaria, capitano Lavagnino, che era legato alla resistenza, era legato a Rocca, si è creato un subbuglio in mezzo ai partigiani, che erano suoi amici, anche non erano solo della gente che si conosceva già dalla resistenza. Quindi ci colpiva il fatto che toglievano un partigiano per un sottufficiale della polizia fascista, quindi sai, l'offesa era forte. In questura hanno disarmato quelli che non volevano venire su a Santa Libera, da amici però, e ha caricato questo camion di tutto il mangiare che c'era in caserma, tutte le armi, sono arrivate a Santa Libera. Qui si svolgevano i contatti tra gli insorti e i politici, cioè quelli che non volevano la rivolta, perché erano al governo, hai capito? L'idea di trattare col governo è venuta su dai politici, capisci? Finché ho formato una delegazione, però devo dire che Armando non è che fosse convinto tanto. Fulmine contrario, perché lui vedeva scappare di mano la rivolta, se tratti la rivolta è finita. Ma gli obiettivi di Santa Libera, non dimentichiamoci, erano revoca dell'amnistia e attuazione dell'epurazione, cioè cacciare i fascisti dal lavoro e mettere dei reduci, dei partigiani, dei perseguitati politici, degli ex prigionieri di guerra, insomma così. Questo era l'obiettivo. Intanto noi non capivamo la necessità, siccome i fascisti c'erano ancora in Italia, che ci disarmassero. Personalmente la mia prima delusione è venuta di lì. Ho capito che sì, noi avevamo lottato per liberare l'Italia dai fascisti, eccetera, eccetera, ma in fabbrica era tutto come prima. E quindi tu sei costretto a lottare, quindi devi continuare a fare il partigiano. Questa situazione viene fuori appunto la famigerata amnistia di Togliatti, capo del PCI, al governo con democristiani, clericali, liberali, eccetera, per dimostrare al potere borghese che lui non voleva la rivoluzione. È che in tutto il centro-nord i partigiani erano sul piede di guerra, non è che c'era solo Santa Libera, c'erano partigiani che non l'avevano veramente consegnata. Noi l'avevamo portata via dalla questura, loro l'avevano nascosta e quindi erano pronti. Per Armando l'incontro con Moscatelli è stato determinante, perché lui aveva molta stima di Moscatelli, e quindi quando Moscatelli gli dice che lui la pensava come noi, ma c'era quei pericoli lì, Grecia, americani in casa, eccetera, e di lì Armando ha incominciato a tentennare, anche se lui però lanciava tramite i giornali proclami che diceva: io sono qui a Santa Libera, non mi muovo da qui, e quindi fin quando non ci saranno risposte che vogliamo noi, insomma, teneva alto questo discorso. E ci dicono: torniamo ragazzi, perché sono andati a Roma, hanno concordato. Io allora dicevo: figurati se sapevo distinguere tra una rivendicazione, non so, 10, 12 o quante erano rivendicazioni, cosa mi interessava a me? Io ero venuto perché ripartisse la resistenza. E mi dicono che la resistenza è finita perché abbiamo vinto, abbiamo fatto la trattativa, il governo c'è, e io ritorno. Cosa vuoi che ti dico? E siamo arrivati ad Asti, e dopo succede che Moscatelli organizza un grande comizio in piazza del municipio, piazza del secondo, piena così, le fabbriche tutti lì, la gente di qua e di là ad applaudirci. Povera gente, applaudite degli sconfitti. Hai capito? Il tranello PC ha mobilitato la gente a applaudirci. Applaudire non dei vittoriosi. Altri episodi di ribellione si susseguirono fino alla fine del 1947, tutti ugualmente inascoltati. Come dice Pino Tripodi, autore del libro Per sempre partigiano, l'insurrezione di Santa Libera, i ribelli di Santa Libera non accettano che gli ideali della resistenza rimangano parole vuote, che i padroni riprendano a governare, che le organizzazioni dei lavoratori facciano le belle statuine. Tolto dai piedi il fascismo, desiderano cambiamenti sociali radicali, riconoscimento pieno dei diritti dei partigiani, si vedono invece messi ai margini. Ciò che poi si calpesta, nonostante la Costituzione, Rocca e compagni lo pretendono prima che la Costituzione venga varata. Un partigiano, Sebastiano Favaro, commissario politico della divisione Pasubio, 30 anni dopo dirà: noi partigiani non siamo in congedo, siamo ancora mobilitati, il nemico che avevamo ieri lo abbiamo ancora oggi. All'insurrezione di Santa Libera è stato dedicato anche un vino, chiamato Rosso Unito. Per chi volesse approfondire, c'è il film documentario con la testimonianza di Giovanni Gerbi dal titolo Santa Libera 1946, la rivoluzione che doveva venire, la rivoluzione che verrà, visibile su YouTube. E poi ci sono i libri di Mario Rossi, Ribelli senza congedo, Rivolte partigiane dopo la liberazione 1945-1947, di Pino Tripodi, Per sempre partigiano, l'insurrezione di Santa Libera, di Laurana Laiolo, I ribelli di Santa Libera, storia di un'insurrezione partigiana, agosto 1946. Si conclude qui anche questa puntata di Gioia e Rivoluzione, ma anche Sconfitte. Alla prossima!